L'assemblea si terrà a Bologna il 6 e 7 sabato e domenica prossimi. Si terrà nelle aule di Berti Pisciat, nelle aule di fisica dell'università. L'indirizzo preciso, tutti i dati e gli orari si trovano sulla pagina di Nuna di Meno Bologna, di Nuna di Meno Nazionale, nella pagina Facebook naturalmente, con l'evento e tutte le informazioni. L'assemblea sarà un'assemblea nazionale organizzata su due giornate. Ci sarà una plenaria introduttiva che verterà su una valutazione complessiva della fase che abbiamo di fronte, che ci aspetta e che negli scorsi mesi si è vista in tutta la sua ampiezza, evidentemente, sia sul piano globale, alcune delle quali hanno avuto un grandissimo successo, come il referendum irlandese, altre che purtroppo non l'hanno avuto, come la mobilitazione argentina per la legge sull'aborto libero e sicuro, ma che nonostante tutto hanno segnato uno spartiacque, sia per la imponentissima mobilitazione che c'è stata di fronte al congresso, ma sia anche perché è evidente che le femministe, le donne, sono state capaci di porre all'ordine del giorno una questione che forse non si è risolta oggi, ma non può più essere elusa, che è la questione della libertà che queste donne stanno pretendendo e affermando. C'è però una situazione, chiaramente chiamiamola locale, che è quella determinata dagli attacchi incrociati del governo, che sono attacchi che hanno la forma più evidente e retrograda e reazionaria del disegno di legge Pillon, ma anche del razzismo istituzionale del decreto Salvini. Fare una valutazione di questa fase significa pensare all'iniziativa femminista di Non Una di Meno, che non si è mai arrestata in questi mesi. Pensiamo soltanto all'ultima mobilitazione generale, che è stata quella del 26 maggio in occasione dell'anniversario della 194, che è stata in avanti una rivendicazione di aborto libero, gratuito e sicuro anche contro tutti i limiti pratici che quella legge impone. Dobbiamo pensare a come riprendere l'iniziativa, sapendo che davvero si tratta di capire quali sono le modalità per essere all'altezza di questa sfida, e proprio di questo discuteremo nei tavoli tematici che ci saranno il sabato pomeriggio, che saranno dedicati a quattro assi. Li chiamo tavoli tematici, ma in realtà non ci sarà, diciamo, una formalizzazione separata, sono tutte questioni che sono organiche, legate tra di loro, che richiedono chiaramente un approfondimento rispetto ai discorsi, rispetto alle iniziative politiche che abbiamo la capacità di prendere insieme, e questi sono prima di tutto il contrasto alla violenza maschile di genere. Non si sono fermati in questi mesi violenza sessuale, femminicidi, stupri e brutalità nei confronti delle donne, e non si sono fermati gli attacchi alla cosiddetta ideologia di genere, cioè a qualunque movimento soggettivo che rifiuti i ruoli e le posizioni che sono imposti dalla società patriarcale. Il nostro intento è esattamente di affrontare questa cosa a 360 gradi, quindi nelle sue manifestazioni sociali più complessive. Ci sarà un tavolo sul razzismo, perché quello che sta succedendo a partire dall'abrogazione del permesso umanitario con il decreto Salvini, ma anche tutto quello che abbiamo visto nel corso di quest'estate, è qualcosa che di fatto sancisce che la violenza sessuale che le donne migranti subiscono per tutto il loro percorso non è più una ragione legittima per pensare che loro abbiano diritto alla protezione in questo paese, per fare soltanto un esempio a riguardo. Il tavolo lavoro e welfare, perché è chiaro che dietro alla maschera di innovazione del decreto dignità c'è una precarizzazione che continua a riguardare in modo molto specifico le donne, e perché la proposta di governo del reddito è qualcosa che va completamente nella direzione opposta rispetto al reddito di autodeterminazione che Non Una di Meno ha proposto nel suo piano femminista. Un gruppo tematico relativo a salute e aborto, libertà di abortire, perché sappiamo molto bene che su quel terreno la campagna e la lotta non sono finite. Infine ci sarà la presentazione di un progetto chiamato Rigeneriamoci liberamente, su ambientalismo e lotte femministe, e l'assemblea plenaria invece si terrà sabato mattina, e sarà il momento di fare una sintesi a partire da tutta questa discussione nella direzione sia delle grandi scadenze e sfide che abbiamo di fronte e di mobilitazione, che sono il 25 novembre e l'8 marzo è l'appuntamento dello sciopero, la sfida è quella di non farne dei riti ma avere la capacità di fargli avere una presa potente sul presente, e tutto quello che ci aspetta nel frattempo. Queste due scadenze sono parte di un processo che deve rimanere attivo tutti i giorni e che ci richiede di pensare appunto un'iniziativa politica efficace, perché l'attenzione non cali mai sulle nostre rivendicazioni.